Ho fatto lasciare qui una chitarra perché stasera ho qualcosa di nuovo da fare, va bene? Siete pronti ad ascoltarmi cantare e suonare per voi? Non farò niente di tutto questo, ma parleremo di questa chitarra, perché posso dirti, anticiparti, che tu sei come una chitarra. Giovanotti cantava "Sei come la mia moto", stasera il titolo del messaggio è "Sei come una chitarra". Girati alla persona che ti sta a fianco e digli "Sei come una chitarra". Sei come una chitarra, non lo so se sei elettrica, se sei acustica o sei classica, ma sei come una chitarra. Quanti vogliono essere una chitarra elettrica? Chi vuole essere una chitarra acustica come questa? Quanti una chitarra classica invece? Ah, c'è qualcuno che è nostalgico, a cui piace la musica classica. Ora, noi siamo come una chitarra e voglio spiegarvi perché parlo di chitarra. Perché, vedete, la Bibbia fa due cose importantissime. Quando noi leggiamo la Bibbia, noi scopriamo, sin dalle primissime parole, che la Bibbia ci rivela chi Dio è. Se tu vuoi conoscere Dio veramente, devi attingere dalla fonte che lui ha prestabilito per rivelarsi. Non puoi farti un Dio a tua immagine, a tua somiglianza, secondo i tuoi gusti, estrapolando verità a destra e a sinistra, facendo un melting pot di quelle che sono le varie religioni e facendoti un'idea di un Dio in base alle esperienze di vita che tu vivi. Devi attingere alla fonte che lui ha prestabilito, e la fonte che lui ha prestabilito è la sua parola, è la Bibbia. Gesù ha detto: sarete veramente miei discepoli se perseverate nelle mie parole. Se perseverate nelle mie parole, aggiunge, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. E se c'è una cosa dalla quale la verità ci libera, è sicuramente la bugia. Tu sei libero dalle bugie nel momento in cui perseveri nella parola di Dio e attingi dalla verità. E ci sono troppe bugie che ci vengono raccontate sul conto di Dio. Ci sono troppe bugie che noi scegliamo di accettare e credere su Dio nella nostra vita. E la Bibbia ci permette di rimuovere queste bugie e rimpiazzarle con la verità, che ci dà libertà. Noi conosciamo Dio veramente quando leggiamo la Bibbia, e io voglio cominciare a leggerla con voi da Genesi 1, e stasera arriveremo fino all'Apocalisse. Vi piace? Quindi preparati a stare con me per le prossime 5 ore, perché questo messaggio non sarà breve. Sto scherzando, eh? C'è stato un silenzio di panico. No, prenderò solo poche decine di minuti, però voglio mostrarvi come sin da Genesi, capitolo 1, versetto 1, ci viene rivelato chi Dio è. Almeno un attributo di Dio, una caratteristica di Dio, perché nella primissima paginetta della Bibbia c'è scritto questo. Le prime parole della Bibbia sono queste. Nel principio, c'è scritto, Dio creò i cieli e la terra. Nel principio, c'è scritto nella Bibbia, Dio. Nel principio di ogni cosa, Dio creò i cieli e la terra. Sapete cosa ci dice tutto questo? Che Dio era presente già nel principio di ogni cosa. Che questo che noi leggiamo in Genesi 1 è il principio della creazione, è il principio della formazione delle stelle, del sole, della luna, del mare, del cielo, delle nostre vite, della nostra esistenza, ma non è stato il principio di Dio. Dio era presente sin dal principio, prima del principio, e lui sussiste, teologicamente parlando si dice, da eternità passate, perché lui non ha un inizio. E sapete cosa ci rivela questo? Che Dio è al centro di tutto, lui è al centro di ogni cosa, lui è al centro dell'universo, lui è prima di ogni cosa. Noi veniamo dopo, ed è importante che ce lo ricordiamo, non ti voglio scoraggiare, ma tu sei un piccolo essere finito, che ha un inizio e una fine, a pochi giorni e rientri in una storia che è lunghissima, e Dio c'era prima ancora che la storia iniziasse. Dio era già presente, perché lui è il Dio eterno. E questa cosa ci rivela che lui è al di sopra di ogni cosa. che lui è al di sopra anche delle mode, delle tendenze del momento. Noi a volte siamo preoccupati di come la società si muove, delle scelte che fa, delle bugie in cui crede, ma noi dobbiamo renderci conto che Dio sussiste da sempre ed è irremovibile ed è il Dio altissimo, potente. Lui ha ogni cosa nelle sue mani, perché è sempre esistito, c'è e sempre ci sarà. E se c'è una rivelazione che tu hai da Genesi 1, versetto 1, è che tu hai la possibilità di relazionarti con un Dio che è sempre stabile. Anche quando la tua vita è sballottata a destra e a sinistra e tu sei confuso, tu hai la possibilità di appoggiarti in quel Dio che sussiste da eternità passate e sussisterà fino all'eternità future. Dio è il creatore. C'è un'altra cosa che la Bibbia fa e che amo tanto, e su questa voglio riflettere con voi questa sera. La Bibbia ci mostra chi siamo noi. È straordinario, perché noi a volte pensiamo che abbiamo un'accurata idea su noi stessi, che noi sappiamo chi siamo, che noi sappiamo qual è la nostra identità, ma Dio ha voluto dirci chi siamo evidentemente perché sapeva che noi a un certo punto avremmo perso una chiara idea della nostra identità. Tu sei quello che Dio dice di te. Oggi l'abbiamo cantato ed è una verità. Tu non sei quello che le esperienze di vita dicono di te. Tu non sei i fallimenti che hai vissuto. Tu non sei la definizione che dai di te stesso. Tu sei quello che Dio dice di te, perché Dio ti ha creato. È Lui il creatore della tua vita, è Lui che ti ha formato ed è Lui che ti ha voluto su questa terra ed è Lui che ti definisce e dice: tu sei quello che dico io. Ed è bellissimo che nella Genesi noi comprendiamo che siamo creature sue. Già questa è una cosa meravigliosa. Tu non derivi dalla scimmia. Tu non sei una scimmia, tu non sei il risultato di un'evoluzione lunga che deriva da... Se vuoi credere in questo, sei il benvenuto a continuarla a fare. Ma la Bibbia dice che tu sei creatura di Dio, fatta a sua immagine e somiglianza. Tu sei il pezzo di opera d'arte migliore che Dio ha potuto forgiare. Tu sei a sua stessa immagine e somiglianza, come leggiamo in Genesi al capitolo 1, dal versetto 27, e nel Salmo 139 c'è scritto che noi siamo stati creati in modo stupendo. Noi siamo stati creati in modo stupendo. Tu sei bellissimo. Tu sei bellissima. E non mi interessa quello che gli altri possono dirti. Non mi interessa quello che tu vedi al tuo specchio quando ti svegli la mattina e hai le borse agli occhi, i capelli malandati e ti senti grassa o troppo magra o troppo alta o troppo bassa o con un naso pronunciato, troppo piccolo. Io ti dico quello che Dio dice di te, e Dio dice di te che tu sei stato creato in un modo stupendo. Lui è innamorato di te. Forse non trovi amore attorno a te, forse non trovi gratificazione in quello che possono essere le attenzioni degli altri, ma posso dirti una cosa: c'è uno che vale molto più di tutti gli altri, e il cui nome è Cristo Gesù ed è il tuo Dio, e Lui ti ama da morire letteralmente. Lui è morto per te e questo è quanto tu vali. Tu sei prezioso, tu sei bello, tu sei bella. Questo è quello che la Bibbia dice, e la Bibbia dice che noi siamo stati creati secondo quella che è una volontà divina, non solo Adamo ed Eva, ma tu e io, proprio tu. Tu Giacomo, tu Giovanni, tu Ilaria, tu non so come ti chiami, ma Dio ha voluto te su questa terra. E sapete dove abbiamo rivelazione di questo? In diverse parti della Bibbia, ma in modo particolare io amo quello che c'è scritto in Geremia 1. In Geremia 1 noi leggiamo il discorso diretto di Dio che parla direttamente a Geremia e gli dice queste parole. E io le ho memorizzate a memoria perché questa è una dichiarazione veritiera della mia e della tua identità, non solo quella di Geremia. Perché Dio dice a Geremia: prima ancora che io ti formassi nel grembo di tua madre, io ti conoscevo. è straordinario. Abbiamo pregato per Gioia, per Loren, abbiamo pregato per Jamie, e questi bambini, noi dobbiamo renderci conto che Dio li conosceva e li ha voluti prima ancora che voi nonni pensaste di mettervi insieme e sposarvi con il vostro marito e avere i vostri figli che un giorno avrebbero avuto questi nipoti. Dio ha stabilito la tua nascita, Dio ha stabilito la tua formazione nel grembo di tua madre, e lui nel grembo di tua madre, quando venivi creato, ti conosceva già. E Dio dice ancora a Geremia, prima ancora che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Sapete cosa significa questo? Significa che Dio non solo ci ha dato un'identità, è della sua volontà che tu sia nato e che in questo momento respiri e che in questo momento mi ascolti e che vivi questa esistenza terrena, ma è altrettanto vero che Dio ti ha creato con un proposito. Un proposito che è stabilito prima ancora che tu nascessi. Non è accaduto che tu sei nato e poi a un certo punto Dio si è chiesto, ma che facciamo con Mirko? Pensiamo un attimo, con Antonio, che cosa possiamo fare? Inventiamoci qualcosa, diamogli qualche talento, diamogli qualche capacità. No, Dio l'aveva stabilito prima ancora che noi nascessimo. Prima ancora che tu uscissi dal grembo di tua madre, lui già ti conosceva e lui già ti ha consacrato e costituito a un'opera, a un'azione. Ed è per questo che ho voluto portare una chitarra. Perché vedete, la chitarra è un oggetto bellissimo, è bella da vedere, è bella da avere anche come elemento di arredo. Lo possiamo appendere nei nostri salotti e fa scena, perché chi l'ha inventata e chi ha creato la chitarra ha pensato di farla anche molto bella. Ma l'obiettivo della chitarra non è essere bella ed essere osservato, l'obiettivo primario della chitarra è fare musica, è suonare. Ed è per questo che, non avendo io un talento musicale, almeno non nella chitarra, voglio invitare Luca a suonarci e deliziarci di una melodia che esprime la ragione per la quale questa chitarra è stata fatta. Ascoltate bene, mentre ascoltate questa melodia e questi accordi, io vorrei che tu riflettessi sulla tua vita, perché tu non vivi per respirare. Tu vivi per suonare. Luca, ci sei? Vai. Grazie Luca, vogliamo fare un applauso, è bravissimo. Tu sei come una chitarra, Dio ti ha creato in una maniera stupenda, bellissimo, e lui ha dato a te l'opportunità di rientrare nel piano che lui ha stabilito per la tua vita, per farti suonare una melodia. La tua vita parla del tuo creatore. La tua vita è stata creata affinché tu potessi essere adorazione e musica di adorazione ogni nuovo giorno. Quando ti svegli la mattina, tu puoi suonare la melodia che Dio ha prestabilito per te. Tu puoi essere quella musica che è piacevole da ascoltare e che porta beneficio tutto attorno a te. Tu sei la musica che Dio ha stabilito. Tu suoni la musica che Lui ha stabilito che tu suoni per portare giovamento al mondo che ti circonda. Ora, noi viviamo un'esistenza che è minacciata e sapete una cosa? C'è un nemico che ci presenta Gesù, il diavolo, il nostro nemico per eccellenza, che costantemente non vuole far altro che sabotare il destino di vita che Dio ha per noi. Questo è il suo obiettivo, c'è scritto nella Bibbia ed è Gesù che lo dice, che il diavolo viene per rubare, ammazzare, distruggere. Lui vuole distruggere la tua vita e non vuole permetterti di farti vivere appieno e di suonare una bella melodia nella tua esistenza terrena. Lui è molto, fatemi dire questo, è molto più consapevole di te della potenza del destino che c'hai. Lui è molto più consapevole di te di quanta potenza, quanta importanza c'è in ogni tua singola giornata. Lui è più consapevole di te di quanto tu puoi portare un beneficio attorno a te in questo mondo. Lui lo sa molto bene ed è per questo che è feroce, per questo viene e attacca e cerca di distruggere la nostra vita e di distorcere quella melodia. E quello che accade è che mentre noi viviamo con il Signore, arresi a Lui, ci sono degli attacchi. Puoi riprendere a suonare. E questi attacchi che vengono da persone a noi esterne. È il peccato e i torti che altri commettono nei nostri confronti. Questo ci rovina. Quando qualcuno dice qualcosa di sbagliato nei nostri confronti, quando qualcuno ci ferisce, quando una relazione si rompe, quando ci sono delle delusioni e delle amarezze, le cose non vanno come vorremmo che andassero. È il diavolo che sta attaccando attraverso il peccato di altre persone. E il peccato di altre persone porta rovina in aree della nostra vita e comincia a cambiare la melodia. Quello che prima suonava bene comincia a non suonare più così bene, perché qualcuno ha fatto un torto nei nostri confronti, perché qualcuno con il suo peccato ci ha imbrogliati, perché qualcuno con il suo peccato ha portato rovina nelle nostre vite. E quello che succede è che la nostra melodia cambia, perché le nostre parole esprimono l'amarezza. Non sono più parole di amore e di vita, ma sono parole di rancore, di odio, di gelosia, di vendetta. E la nostra musica non suona più così bene perché ora viviamo nella delusione, nel dolore di quello che ci è stato tolto, di quello che ci è stato rubato. E se noi permettiamo al diavolo di fare questo, noi non viviamo più veramente. Noi respiriamo, ma non suoniamo. E quello che succede è che oltre questo c'è un'altra minaccia. Sono due le minacce nella nostra vita: i peccati degli altri e i peccati che sono in noi stessi. E i peccati che sono nella nostra stessa vita, peccati nelle diverse aree della nostra vita, che possono essere rappresentate dalle diverse corde, portano anch'esse distorsione, disarmonia e una chitarra che diventa stonata. Vuoi riprendere a suonare? Sì, ancora scordato. Lo so che non è gradevole da sentire questa chitarra ora, ma c'è di peggio. C'è di peggio quando il diavolo viene e mette in noi dipendenza. C'è di peggio quando il diavolo viene in noi e ci porta a fare abuso di alcol, di droga. Quando il diavolo viene e mette in noi rabbia. C'è di peggio quando il diavolo nella nostra vita ci porta a mentire, ad essere noi a nostra volta degli imbroglioni. È questo quello che rovina la nostra vita. E la chitarra diventa qualcosa che è sfasciato, qualcosa che non funziona e che non suona più. Però io sono qui questa sera non per darvi solo la brutta notizia. Io sono qui questa sera per dirvi che il Creatore è colui che anche suona la chitarra ed è colui che anche la sa accordare. Esattamente come stava facendo prima. Vuoi riprendere? Vai. Poverino, le l'abbiamo così scordata questa chitarra che sarà un miracolo. Non legge più niente. Beh, buona fortuna con questo, io vado avanti col messaggio. E sapete, la cosa bella quando leggiamo la Bibbia è che ci sono tante storie nella Bibbia che ci vengono presentate, che parlano di uomini e di donne che nel momento in cui hanno incontrato il Creatore e hanno avuto rivelazione di chi Dio è veramente, hanno avuto l'opportunità di riprendersi e di ritornare a vivere pienamente, perché nel momento in cui il Creatore prende nelle sue mani la creatura, la mette in ordine. E io voglio parlarvi della storia di Zaccheo a conclusione di questo messaggio. Perché Zaccheo era un uomo la cui chitarra non suonava affatto, quello che suonava era un suono così distorto e così disturbante che le persone lo avevano emarginato. Zaccheo era un pubblicano. Sapete chi erano i pubblicani? I pubblicani erano dei mafiosi all'epoca di Gesù. Quello che loro facevano era collezionare tasse a favore dei coloni romani per poi dare una parte di queste tasse ai romani e tenersi tutta quella parte che loro speculavano con malizia, con violenza, con estorsione alle persone che li circondavano. E noi leggiamo che Zaccheo non era solo un pubblicano. Già sarebbe stato grave se fosse stato un pubblicano, ma quello che noi leggiamo è che Zaccheo era il capo dei pubblicani. E sapete cosa significa questo? Che lui aveva un'intera organizzazione sotto di sé, di tante persone che imbrogliavano, di tante persone che storcevano, di tante persone che erano violente e facevano tutto per un egoismo personale, per racimolare soldi, per avere beni, e li strappavano a persone misere, povere, già oppressate, già schiacciate dal duro lavoro, e toglievano loro i soldi per appropriarsene. Ma Zaccheo, a un certo punto della sua storia, sente che proprio nella sua città stava per passare Gesù. E quindi che cosa fa? Lui si affaccia e si avvicina proprio in questa strada. E quello che ha dell'incredibile è che Gesù vede Zaccheo. Vede Zaccheo, vede la sua vita, ascolta la musica stonata che ha da offrire e dice: io prenderò questa chitarra e la riaccorderò per farla suonare come ho prestabilito che questa chitarra suoni. E quello che ha dello straordinario è che Gesù, rivolgendosi a Zaccheo, si è autoinvitato a casa sua. Ha detto: Zaccheo, io verrò a casa tua e cenerò con te. Questo è l'interesse che il Creatore ha per la sua creatura. Questo è l'interesse che Dio ha per te. Non sei tu che devi rincorrerlo, non sei tu che devi cercarlo chissà dove. È Lui che sta cercando te. È Lui che vuole venire in casa tua. È Lui che vuole avere un'intima relazione con te. Per questo ha cenato con Zaccheo, e il motivo per il quale vuole fare questo non è per giudicarti, non è per dirti: ah, quanto sei stonato, ah, quanto sono rovinate queste corde, ah, che brutta esistenza che hai vissuto finora. Lui viene non per giudicare, ma per salvare. Lui viene per prendere in mano le sue stesse creature e riaccordarle, ed è quello che fa in Zaccheo, nella vita di Zaccheo. E noi leggiamo brevemente in quella che è la sintesi che ci viene presentata nei Vangeli, che Zaccheo decide di ridare non tutto ciò che aveva rubato indietro, ma ridare 4 volte tanto a tutte le persone che aveva derubato. Non so come ha fatto, forse ha rubato da altre parti, perché era impossibile ridare 4 volte tanto quello che ha rubato. Si vede che il suo cuore è cambiato radicalmente. E questo succede quando noi incontriamo Gesù. Gesù ti incontra in un luogo. Lui ti incontra con le tue corde scordate. Lui ti incontra nella tua vita che non ha più scopo, che non ha più senso. Lui ti incontra nella tua vita che è una ripetizione di giornate che sono uguali e che non si allineano alla sua piena volontà e non vivono del privilegio del destino eterno che Lui ha stabilito per te. Lui ti incontra dove ti trovi, proprio lì, per dirti: tu sei una mia creatura, io ti ho fatto a mia immagine e mia somiglianza per darti uno scopo, per farti vivere su questa terra, nelle minacce di ogni giornata, di delle persone che peccano nei tuoi confronti e nelle minacce dei peccati che dentro di te si muovono, per darti l'opportunità nelle mie mani di essere costantemente accordato. Sapete, io amo la chitarra perché, a differenza del pianoforte, ad esempio, si può facilmente riaccordare. E lo può fare chiunque. Ed è quello che Dio ama fare. Ama brevemente prendere la tua vita e ridare il giusto accordo, ribilanciare la tua vita matrimoniale, ribilanciare i tuoi rapporti, ribilanciare quei sentimenti che sono stati intaccati, distorti per i torti che sono stati commessi nei tuoi confronti. E nonostante tutti i torti, nonostante le cose non cambiano attorno a te, tu ora sei nelle mani del Creatore e suoni una bellissima melodia. E hai uno scopo, quello di portare luce, hai uno scopo, quello di portare speranza in altre persone, hai lo scopo di dire agli altri: vedete, anch'io ho sofferto, anch'io sto soffrendo, anch'io vivo le stesse situazioni, ma sono nelle mani del Creatore. E il Creatore ha la capacità di mettermi sempre nel giusto accordo e farmi sempre suonare con la giusta armonia. Io non so come sei venuto tu questa sera. Forse non sapevi neanche di essere una chitarra. Non sapevi neanche di avere tutto questo valore, tutta questa importanza. Sei nel posto giusto per sentire queste parole, perché Dio ti ha portato qui per dirti che tu per me sei importante. La tua vita per me è importante. E io ti ho conosciuto prima ancora che tu fossi formato, e io ho stabilito che tu vivessi un'esistenza al di sopra dei problemi, al di sopra delle circostanze negative, al di sopra dei torti di questa società, per suonare una melodia che dà sempre gloria al tuo stesso Creatore. Questa sera l'unica cosa che devi fare è quello che Zaccheo ha fatto. Quando Gesù si è autoinvitato a casa sua, Zaccheo non ha detto: no, non ti ho invitato, non ti voglio. Zaccheo non ha detto: no, sono occupato, non ho tempo. Zaccheo non ha detto: no, non credo che tu possa dare un valore aggiunto alla mia giornata oggi. Zaccheo è stato entusiasta, era gioioso di aprire le porte di casa sua per far entrare il Salvatore. E il Salvatore è entrato e ha concluso. E noi leggiamo nei Vangeli che la conclusione della storia di Zaccheo finisce proprio con queste parole di Gesù, che dice: il figlio dell'uomo, riferito a se stesso, è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Questo è quello che Gesù fa. Lui cerca e salva. Lui ti sta cercando e ti sta salvando. Lui ti sta cercando anche se tu non lo stai cercando. Lui ti vuole salvare anche se tu forse non credi che hai bisogno di salvezza. Lui viene e ti cerca e ti salva, anche se tu magari lo hai già ricevuto nella tua vita e lo riconosci come Salvatore, ma ci sono delle aree nella tua vita dove c'è una distorsione, un disequilibrio, una scordatura. Lui viene perché ti cerca e lui viene per salvarti. E stasera tutto quello che hai da fare è aprire il tuo cuore a lui, aprire la casa tua a lui, dire: la mia vita suona bene nelle tue mani perché tu l'hai creata, tu c'eri prima di me, tu sai come funziona. E se io continuo a mantenerla rigida in me stesso, continuerò a raccogliere quello che ho raccolto finora. È tempo di fare una scelta, è una scelta decisa nei confronti di Gesù, e dire: io Gesù ti arrendo tutto di me, io arrendo tutto di me, arrendo le decisioni che voglio fare e le decisioni che non voglio fare, arrendo le giornate migliori e arrendo le giornate peggiori, arrendo la mia esistenza nelle tue mani, perché io voglio essere quel Geremia che vive per uno scopo e che porta luce in questo mondo di tenebre. Vogliamo alzarci in piedi e vivere un tempo di preghiera. Che hai fatto? L'hai accordata nel frattempo? Vogliamo ascoltare, vogliamo vedere quanto sei stato bravo ad accordare questa chitarra. Spero che l'hai accordata bene, perché tu sei l'immagine di Dio. E Dio fa le cose perfette, quindi... Stasera sei entrato in una maniera, ma puoi uscire in una maniera diversa. Dio vuole fare questa cosa nella tua vita. Lui vuole accordare, Lui vuole mettere armonia. E noi vogliamo pregare affinché questo accada. Quindi se con me tu questa sera dici sì, io voglio mettermi nelle mani di Dio, allora io ti chiedo, dovunque ti trovi, di alzare le tue mani. Quando alziamo le mani è il nostro gesto di arresa. E io ti chiedo questa sera, se dici sì, io voglio arrendermi a Dio, voglio arrendere le mie giornate, voglio arrendere la mia esistenza e voglio essere accordato da Dio, se questa è la tua preghiera, dovunque ti trovi, alza ora le tue mani al cielo e voglio pregare per te. Grazie Padre per queste mani che si alzano, grazie Padre perché sono testimonianza di cuori che si arrendono, e noi siamo qui Dio credendo nel fatto che tu sei il creatore, che tu c'eri prima di noi e ci sei sempre stato, e noi siamo convinti del fatto che se c'è uno che può mettere armonia e ristabilire ordine nella nostra vita, quello sei tu. E noi questa sera in una maniera decisa e radicale vogliamo offrirti la nostra vita. Io prego Padre per quanti in mezzo a noi questa sera stanno arrendendo il loro matrimonio, io prego che tu possa prendere le redini in mano di questi matrimoni e che tu stesso possa riaccordare e che tu possa far funzionare ciò che tu hai prestabilito, che funzioni e funzioni appieno. Io prego Padre per tutti coloro che hanno le loro mani alzate e hanno rovina nel loro cuore per ferite, per torti che hanno subito. Io prego nel nome di Cristo Gesù affinché tu in questo momento possa guarire e possa riaccordare quelle corde stonate, che la nostra voce non possa più essere alimentata da amarezza, da delusione, da rabbia, ma che la nostra voce possa essere un suono di adorazione, perché noi crediamo che tu ci dai la forza di perdonare e di porgere l'altra guancia. Padre, noi vogliamo allinearci alla tua volontà e io prego affinché tu possa sbloccare qui questa sera, in questo momento, nel nome di Gesù, ogni destino di vita. Io prego che noi possiamo rientrare nella piena tua volontà di farci camminare con te e per te, portare luce in questo mondo di tenebre. Padre, noi abbiamo tutta la forza, tutta la potenza nello Spirito Santo per dare speranza alle persone che ci sono attorno, per dare opportunità ad altri di credere in te, e non vogliamo più suonare in una maniera scordata, stonata, perché determinate cose non sono andate come volevamo nella nostra vita. Noi arrendiamo a te ogni amarezza, noi arrendiamo a te ogni delusione, noi arrendiamo a te ogni cosa che ci porta ad essere non stabili nelle nostre emozioni. Noi ci affidiamo nelle tue mani perché crediamo che tu hai il meglio per noi e tu vuoi fare grandi cose attraverso ciascuno di noi. Lo preghiamo questo nel nome potente di colui che è il Salvatore del mondo, di colui che ha salvato la vita di Zaccheo e vuole e può salvare la vita nostra, nel nome potente di Gesù Cristo. Amen, amen, amen. Continua a fare la tua preghiera in questo momento. Mantieni i tuoi occhi chiusi, mantieniti concentrato su Dio e fai la tua preghiera a Lui. Ora esprimi a tue parole quello che hai nel cuore, e dove sai che lo Spirito Santo ha toccato il tuo cuore, esprimi la tua preghiera in accordo con quello che lo Spirito Santo ti ha voluto dire questa sera, mentre adoriamo insieme il Signore ancora.